Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti voi che sapete che oggi è un sabato sportivamente speciale, ma buon pomeriggio anche a quelli che non lo sanno. Adesso glielo spieghiamo. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. È un sabato speciale e io ho un compagno di viaggio speciale, anche abituale per la verità, però oggi è qui con me Andrea Zorzi, buon pomeriggio. Oggi è qui con me la cosa speciale, perché di solito ci sentiamo per telefono da luoghi spesso distanti. Da luoghi per te strani, per me sempre dallo stesso, questo qui. Però è un sabato che meritava un ospite d'onore, perché ha mille temi dentro, intorno, insomma, tutti quanti avviluppati. 800 24 00 24 per parlare con noi. È stata la settimana di Krasić e del suo tuffo e delle, secondo me, abbastanza incomprensibili polemiche sponda juventina che hanno accompagnato questa squalifica che non fa una piega, che tant'è vero che è stata confermata ieri, e quindi Krasić stasera alle 8:45, fischio d'inizio della partitissima di San Siro, non ci sarà. È stato venerdì di sentenze anche per Italia-Serbia di ieri, sentenza molto politica, molto equilibrata e anche molto troppo morbida, secondo me, anche nei confronti, o forse soprattutto nei confronti dell'Italia, e continuo a ripeterlo. È il sabato in cui Cassano rompe definitivamente con la Sampdoria, che chiede la rescissione unilaterale del contratto del Gremio Adempienze, questa lite, questo bisticcio abbastanza da bar, credo, nei contorni, ma poi ce lo facciamo spiegare. Di Cassano con il suo presidente Garrone, per il quale fino a pochi mesi fa era come un figlio, adesso è invece un giocatore non più gradito. Un sabato in cui c'è tutto questo, ci sarà tutto questo, c'è stata anche la seconda vittoria della nazionale italiana femminile di pallavolo questa mattina in un test un po' più probante di quello di ieri, perché c'era l'Olanda e l'abbiamo battuta 3-2, questo mi sembra, ma tra poco ce lo facciamo dire da Andrea Zorzi, uno splendido segnale. Già che siamo qui, caro Andrea, il personaggio della settimana, così te lo chiedo guardandoti negli occhi. Francesca Schiavone. Ma dai. Sì, parliamo di tennis anche, per non restare sempre nell'ambito pallavolistico, che il mio mondo però non è l'unico. E perché ha partecipato a questo torneo importante? E perché il torneo a Doha. E come tu sai, Doha è uno dei luoghi che ho frequentato ultimamente un po', con un po' di frequenza, perché c'è Al Jazeera Sport, sì, la sede a Doha, e quindi conosco un po' quella televisione, conosco quel luogo, lo trovo interessante, lo trovo speciale, trovo che il Qatar stia facendo un'operazione particolarissima proprio di acquisizione di grandi eventi. Il torneo di tennis è uno, il GP della moto è un altro, tornei di golf. Argentina-Brasile con il ritorno di Ronaldinho, che si giocherà proprio a Doha. Concettualmente, in questa specie di grande lotta che i vari emirati del Golfo stanno facendo, c'è chi come Dubai investe nella logistica, negli aerei, quindi è nel turismo, c'è chi investe nello sport come lo sceicco, l'emiro del Qatar, e si è comprato i più grandi tornei. Ma perché si comprano questi eventi sportivi? Perché è un modo per rendere famoso, per parlare di Qatar in giro per il mondo. Cioè, mettono lo sport in vetrina? Hanno fatto un qualcosa di molto più interessante. Cioè, nel 2006, quindi ormai 4 anni fa, il Qatar ha ospitato i giochi panasiatici, che non saranno conosciutissimi da noi, ma provo a immaginare chi partecipa. Cina, India, veramente un torneo gigantesco. Hanno creato strutture meravigliose, la più importante delle quali è l'Aspire Center. È un luogo dove si fa sport di altissimo livello, con impianti meravigliosi, dove vengono invitati gli atleti di alto livello, dove partecipano anche nazionali di vari sport stranieri che vanno a fare gli stage durante la stagione invernale. Lì fa spesso caldo. Hanno un palazzetto, chiamano palazzetto, è riduttivo. Si possono giocare all'interno dell'Aspire Center 7 discipline contemporaneamente. Puoi giocare a calcio, puoi giocare a pallavolo, a basket. Esatto, per rendere l'idea, gli impianti olimpici gli fanno un baffo. Esattamente. Hanno lo stadio con l'aria condizionata. Lo stadio da calcio? È aperto. Ma dai. Con l'aria condizionata. Ma fanno anche i centri commerciali loro. Beh sì, aperti con l'aria condizionata. Questo li fa anche la Juventus. Esatto. E hanno un centro medico, un ospedale in cui lavorano i più grandi esperti di ogni settore della medicina sportiva. Quindi è un grandissimo investimento economico. Non so quante ricadute abbia nella gente che abita in Qatar, tra l'altro è pochina. Ci sono vari numeri, però si parla di 800.000 persone, di cui però molti sono emigranti. Sono quelli che vanno dall'India, dal Bangladesh per fare i lavori, e quindi un posto molto particolare. Secondo me è ancora una fase iniziale in cui lo sport è utilissimo per parlare di Qatar in giro per il mondo, sì. Se ne parla però non come di un paese che ha una cultura sportiva, ma che usa lo sport al proprio obiettivo, sì, di rendere il Qatar e il suo emiro più conosciuto. Mentre al capitolo cultura sportiva siamo a livelli bassi, no? Siamo a livelli bassi, non sono gli unici, perché nel mondo arabo, che però è molto più complesso, perché poi sai, gli Emirati Arabi sono una regione un po' particolare, la penisola arabica, l'Arabia Saudita è un'altra cosa, il Maghreb, il Nord Africa, tutti quanti paesi che hanno l'arabo come lingua madre, però sono molto molto diversi. E non c'è un grande rapporto tra lo sport professionistico e il mondo arabo. In una statistica che avevo fatto un po' di tempo nel fa, nel senso che non lo fanno e gli importa poco anche da andare a vedere, con modalità molto diverse. L'Egitto, per esempio, sportivamente parlando, non è così male. No, certo. Però tieni conto che si parlava di più o meno di circa 500 milioni di persone che abitano questi paesi considerati arabi, con tutte le differenze. In tutta la storia olimpica, tutti i paesi arabi hanno vinto molto, ma molto, ma molto di meno della sola Italia. Pensa un po'. Andrea, adesso ci fermiamo un attimo perché, come sai, abbiamo il traffico. Subito dopo andiamo a Genova per provare a capire cosa succede. Intanto c'è Paolo Villaggio che ha detto: ridatemi Cassano o faccio una sciocchezza. Questo ha detto Paolo Villaggio. No, Paolo Villaggio, non facci la sciocchezza. Ridate Cassano o faccio una sciocchezza. Tra l'altro, Paolo Villaggio, non so se lo sapevi, era in classe con Riccardo Garrone al liceo Andrea Doria. Lo sapevi? No, non sapevo questa cosa. Quindi gli avrà telefonato: ridammi Cassano, non fare il pazzo, ridammelo. Sarà una bella carella anche questa, via. Tra poco ci facciamo spiegare cosa sta succedendo a Genova. Traffico. Scrivono anche diversi ascoltatori: come sono finite le prove di MotoGP? Sono finite sotto il diluvio, sospese, valgono le prove del mattino, Lorenzo partirà in pole position, tutto ancora da confermare, però andrà così, e quindi all'Estoril oggi pomeriggio era impossibile girare in moto, si arriva alla barca. Krasic non fa una piega, la pena comminata gli è giusta, ma che tristezza Cassano. Come può Garrone rinunciare ad almeno 15 cucuzzoni, scrive un ascoltatore. 349-238-6666, se volete parlare con noi, specialmente con Andrea Zorzi, oggi 800-24-0024. I cucuzzoni sono i milioni di euro e i gol. I milioni di euro. Okay. I cucuzzoni sono i milioni di euro. Come faccia Garrone a rinunciare? Me lo sono domandato anch'io. Andrea Ferro da Genova. Buonasera a voi. Buonasera a lei. Come fa a rinunciare a 15 cucuzzoni, Garrone? Ma in realtà non è detto che rinunci a questi 15 cucuzzoni, come dite voi, perché in realtà ci sono delle diverse interpretazioni sul gioco finanziario calcistico che poi è alla base di questa clamorosa, di quella clamorosa operazione che portò Cassano da Real Madrid alla Sampdoria, orchestrata da Marotta, come certamente ricorderete. Ebbene, sulla base di un'interpretazione che viene data in questi minuti a Genova, chiaramente impazzano tutte le ipotesi e tutti i calcoli possibili, ebbene si dice che in realtà la Sampdoria, non rinnovando il contratto a Cassano, non dovrebbe più versare il 20% del prezzo pagato per il giocatore, come stabiliva appunto quell'operazione finanziario calcistica che fu alla base del passaggio di Cassano alla squadra blucerchiata. Quindi in realtà la perdita sotto il profilo economico, al di là di quella agonistica dell'eventuale, o anzi ormai certo, rinuncia delle prestazioni di Cassano, non sarebbe così clamorosa come è stato detto e scritto fino a poco tempo fa. È vero anche che Garrone è un uomo che va per le questioni di principio e ha subito, diciamo così, l'atteggiamento di Cassano dopo il rimbrotto in seguito alla mancata partecipazione alla festa del club come un'offesa che non poteva essere comunque risolta se non con un atto in qualche modo formale da parte dello stesso Cassano, e si parla quindi di una riunione che sarebbe stata successivamente, diciamo, a questo scambio di battute non proprio confortante tra Cassano, soprattutto in base a quello che Cassano avrebbe detto a Garrone mercoledì nello spogliatoio. Ebbene, sarebbe stata una riunione nei minuti successivi nel corso del quale sarebbe stata, diciamo così, impostata una via di uscita. Sarebbe stato proposto in sostanza a Cassano di rendere pubbliche scuse con un documento ufficiale, sì, oppure di rinunciare in maniera piuttosto sostanziosa ad una parte dell'ingaggio in vista chiaramente del rinnovo. Si parla addirittura di uno sconto, diciamo così, come sì. punizione, come penitenza di 800.000 euro. Gli hanno detto o fai pubbliche scuse in ginocchio sui ceci davanti a tutto il mondo dello sport, oppure ti diamo molti meno soldi, così. Esatto, più o meno questo sarebbe stato, diciamo, l'impostazione della via di uscita sarebbe stata questa. Cassano non avrebbe accettato, intesa evidentemente anche con il procuratore, e quindi si è giunti a questa frattura ormai non più ricomponibile. Sì, Sandoro che ha chiesto la rescissione del contratto, giusto? Sì, ha chiesto la rescissione del contratto e, ripeto, come dicevo all'inizio del collegamento, viene interpretata in un primo tempo come una questione di principio che comunque costa parecchio alle casse della Samp. In realtà, valutando l'operazione generale che è alla base del l'arrivo a Genova di Cassano, in realtà non ci sarebbe poi questa perdita così clamorosa. Sì. Ripeto, stiamo ragionando su una serie di calcoli, di ipotesi che si stanno facendo in queste ore e che non hanno nessun tipo di conferma ufficiale, è chiaro. Queste ipotesi però sono successive al fatto che il caso nasce per questioni morali, di rapporto diretto con Garrone? Sì, anche perché ricordiamo allora il caso Sbelli, diciamo così, la mancata partecipazione di Cassano martedì sera ad una festa organizzata in suo onore in un club di Lavagna, festa alla quale avrebbe dovuto partecipare, così gli aveva chiesto esplicitamente il presidente Garrone. Lui aveva fatto spallucce ed era rimasto a casa con la mogliettina in dolce attesa. Il giorno dopo, al campo di allenamento della Samp, Garrone ha ripreso Cassano, il quale si è rivolto a lui in maniera, diciamo così, poco simpatica, di cui, diciamo, l'inizio di questa storia può dirsi conclusa, che porterà Cassano da un'altra parte che non è Genova, e secondo me non molto lontano da Genova, perché se dovesse a gennaio 140 chilometri se dovesse andare a Torino non sarei poi così sorpreso no, anche perché ricordiamo che a Torino lo sapete meglio di me, il direttore generale un certo Marotta, l'allenatore del Neri, con i quali dopo peraltro non pochi problemi nel corso della scorsa stagione, poi Cassano ha ottenuto... Allora cerchiamo il tabulato, vediamo se Marotta ha telefonato a Cassano la sera prima di non andare, perché questo potrebbe essere il casus belli per cui loro si arrabbiano. Andrea Zozzi ha capito tutto. Io mi tiro indietro. Ha capito tutto Andrea Zozzi. Grazie Andrea, buon lavoro. Buona serata a voi. Grazie ad Andrea Ferro. Dunque così Cassano, però l'evento del giorno oggi, caro Andrea Zozzi, non è tanto Cassano, che poi vanno e vengono, è il compleanno del più grande dei geni. Ti faccio sentire una cosa. Che forza della natura questo Diego Armando, difficile a raccontarlo, anche oggi che fa 50 anni, Maradona scappa via da tutte le parti, come ai mondiali dell'86, dove risalì tutto il campo per battere Shilton, gli inglesi immobili a guardar passare la storia o la mano de Dios. Esagerato in tutto, nel talento, nella generosità, nel buttarsi via, nel darsi agli umili e ai potenti che rispetta, come Fidel Castro e Chavez. Dicevano che con la palla era una foca, ma che foca. Il vero Maradona lo vedevi in allenamento, era uno spettacolo. Lui non perdeva mai una partitina. Il campo si vedeva che era proprio una persona felice, ogni giorno per noi era una scoperta nuova. Chiamarlo mancino è limitativo, perché la palla è un prolungamento del suo corpo, tarchiato e sgraziato, ma anche lieve e reattivo come quello di un ballerino. Nel calcio moderno non ha rivali, nel gioco della storia forse solo Pelé. Ma era un calcio più lento. In più, come dice lo stesso Diego, cosa sarebbe stato come calciatore senza cocaina? Maradona è istinto, palla che va più veloce del pensiero. Per questo, come allenatore, non sarà mai così grande. Ma di questo ne riparleremo tra 50 anni. Questo era Dario Ceccarelli. Sì, io mi limiterei, non credo ci sia nulla da aggiungere su Maradona, perché è stato tutto il contrario di tutto. Sì. Invece mi piace molto un tema, tu sai, a me essere molto caro, di come dei grandi atleti possano diventare, o quanto fatica facciano a diventare dei buoni allenatori. Sì. Maradona è ovviamente un caso unico, perché è così tanto talentuoso che poi diventare un buon allenatore è particolarmente complesso, ma io penso che questo passaggio, più uno è talentuoso, più sia complicato. Questo è un altro tema interessante. Intanto ti ricordi i collegamenti da Napoli 90° minuto? Altro che... Luigi Necco, buon pomeriggio. Ciao Luigi. Buongiorno. Buongiorno a te. Ma non a caso avete ricordato cioè capita questo compleanno nei giorni in cui Cassano fa parlare di sé. Non dimenticate che le bizze di Diego erano clamorose quanto le sue azioni sul campo. Lo sa bene Ferlaino lo sanno certi tifosi che seguivano la squadra da vicino. Senti Luigi, tu sei diventato anche grazie a Diego, oltre alla tua bravura, un'icona dello sport italiano. Grazie, siete molto gentili. Grazie, è cronaca. E io e Maradona insieme ringraziamo. Ti permetto di dire insieme perché il suo ricordo è il mio ricordo. E il nostro. Almeno per me. Milano chiama, Napoli risponde. Eh beh, quello è divertente. Però voi ne avete citato già una, sì. E cioè la mano di Dios, perché nessuno di voi sa. Io lo so, alzo la mano di Dios, io la so. Tu gli hai chiesto, dopo che l'Inghilterra, la mano di Dios o la cabeza di Maradona? Esattamente. Aspetta, come siete preparati. Hai visto. E lui ti rispose? Las dos. Las dos. Sì. La sapevi questa, Andrea? No. Era stata in fondo la sua mano, la mano del dio del calcio, con tutto il rispetto parlando, ma sapete com'è, in Asia sudamericani gli uomini erano dei. Senti, ma dopo che la mano de Dios e il tufo de Krasic, come lo vedi? Non so come si dica in spagnolo. Non saprei, ad ogni modo non lo so nemmeno io, ma devo dirti che mi dispiace che lui abbia lasciato questo strascico abbastanza penoso di tasse, di ricordi di droga, sì, eccetera, che non ti consenta di ripercorrere i suoi sentieri di gloria, perché in fondo sì, è vero, ha vinto da solo un campionato del mondo e stava per vincerne un altro, ma fecero gli americani, lo buttarono fuori in tempo. E se non avrebbe vinto in America. E mi dispiace, veramente mi dispiace, perché questo costringe a fare il solito parallelo, a fare il solito confronto, ma insomma abbiamo avuto sì un genio del calcio, ma abbiamo avuto anche il genio maledetto, quello che distrugge se stesso. Sì. E questo mi è dispiaciuto. Dispiaciuto a tutti noi. Tu a quell'epoca eri un genio della pallavolo? No, ero un buon giocatore. Però in Maradona le due cose sono talmente unite che è impossibile staccarlo. E quindi è vero, chissà un Maradona che senza questi eccessi, senza questi strascichi, senza queste situazioni sarebbe un altro personaggio. In campo non c'è dubbio che è il migliore, si racconta di lui di tutto e di più. Ma anche il calcio, come tutti gli sport, ha bisogno del 95% di olio di gomito, o meglio di ginocchia, e 5% di intuizione. E se non ti alleni, e se non sei puntuale, e se non rispetti le regole, la tua genialità se ne va a pallino. Lo dico per Maradona e lo dico per chiunque altro. Il genio sì, e forse non si ripeterà più quel genio. Ma quanta fatica, chi ha mai visto i veri allenamenti di Maradona, quelli che faceva con Signorini da solo nella palestra o a casa sua o di nascosto negli spogliatoi del Napoli, chi li ha mai visti? Erano qualcosa di spaventoso, di faticoso. Io ricordo Van Basten una volta a Milano, dopo un allenamento mi disse, ma come, sai, stava con Sacchi, mi disse ma come fa quello là a uscire dall'allenamento e poi andare a nightclub? Cosa ne pensi, Andrea? Un mistero, una grande energia. Sì. Riuscire a definire percentuali in cui il genio possa essere utile in uno sport è complicatissimo. È vero, ho detto una percentuale a caso. È vero però che il calcio come disciplina, secondo me, permette al genio di avere maggiori possibilità rispetto ad altri sport, che sia sul basket, che sia la pallavolo, dove davvero il genio o l'individuo deve essere supportato dagli altri. Nel calcio si può vincere per un gol solo. Si diceva prima, non c'è nella partita di calcio un flusso che tu puoi cogliere in cui una squadra è in vantaggio e l'altra. Può accadere di tutto e un solo evento potrebbe essere decisivo. Ecco perché l'individualità potrebbe essere decisiva. Io devo dire una cosa. quando vedo delle partite di basket, eccetera, beh, io penso agli astronauti. Sapete perché? Perché secondo me i giocatori di basket, oppure anche di pallavolo, insomma, quando si cerca di volare, di cogliere l'attimo, rubarlo l'attimo all'avversario, ho l'impressione di certi superuomini che vivano in un'altra dimensione, quella di un tempo estremamente per loro più dilatato e per me invece sempre più concentrato, più stretto, sì. Cioè la frazione di secondo, che a me sembra una frazione di secondo, per loro invece è un tempo immenso nel quale si muovono, bloccano, vincono, perdono. E allora mi sembrano creature dello spazio. Sì, poi è vero, mi sembra una bellissima immagine. Prova ad immaginare, a parte che è perfetta perché c'è l'idea del salto, sì, del stare in aria, del tempo allungato, ma addirittura prova ad immaginare quanto siamo abituati noi a rivedere le immagini di basket, di pallavolo, ma di baseball, di football al rallenti televisivo, e solo dopo riusciamo a capire cosa veramente è accaduto, sì, perché live vedi che la velocità è diventata tale che il nostro occhio non la coglie più. Vero, verissimo. Infatti salvo tutti, quel famoso esperimento. Infatti tutti vogliono la fotografia di Bella e nuda, è vero, e farla scorrere un ventesimo di secondo. Secondo la gente si coglie. Tu secondo... che ne dici? Io dico anch'io. Io sono d'accordo con la Vox Populi. Luigi, ti chiedo ancora questo: Milan-Juve di stasera, per la cronaca, come finisce? Senti, no, io mi devo confessare una cosa. Io ho un doppio tifo. Da una parte c'è un Milan che mi ricorda i bei tempi, alcune cose, sì, dei grandi campioni, persino Rivera. Quando vedo il Milan rivedo persino Rivera, rivedo Rocco, sì. Però quando vedo la Juve e io vedo la signora, ma veramente la signora, quella che scende le scale cantando perché vince, perché trionfa, è un doppio tifo. Non so giudicare dal punto di vista tecnico, chiaro che oggi sì, secondo me si presenta meglio il Milan, sì, ma questa Juve che una volta era capace di girare pagina quando meno te l'aspettavi, chi lo sa. E vediamo se riescono a girare pagina, ma da mille punti di vista, perché ne avrebbe bisogno la signora per ritornare tale. Grazie Luigi, è stato un piacere. Grazie per avermi ricordato ma, 50 anni fa. grazie Luigi Necco, piacevolissima chiacchierata. Non manca certo la poesia a Luigi Necco, quando parlava di questa signora, che devo dire sì, era la vecchia signora, adesso insomma fa fatica a ritornare tale, avrebbe bisogno di vincere. Esatto. Perché anche tutte le polemiche, non passa settimana senza che si parli di scudetti da riavere o da ridare. Tra l'altro è ripartito con il caso Krasic all'inizio e questo è uno dei temi della settimana, difficile da toccare perché la simulazione, se ne parlava prima. Guarda, a me è piaciuto meno la settimana rispetto alla domenica, cioè mi è piaciuto meno tutto quello che è avvenuto dopo la simulazione di Krasic, addirittura paradossalmente più della simulazione stessa. Che simulazione è stata? Che Krasic sapeva bene essere simulazione, tanto che ha fatto il pugnetto di esultanza quando gli è andato il rigore. Possiamo discutere su questo, no, non è chiaramente sportivo, su quanto questo possa stare nel mondo dello sport, un atteggiamento di questo tipo. Ma quello che è successo dopo, dire non è simulazione, vergogna, ridateci questo e quell'altro, infatti, togliamo le giornate, questo a me è piaciuto pochissimo. Su quanto è accaduto dopo possiamo essere più tranquilli, perché le esagerazioni, le prese di posizione moralistica hanno veramente poco significato e poco c'entrano con lo sport, quindi lì possiamo passarci sopra. Per quanto riguarda la simulazione è un po' complicata, perché è vero che fa parte di quella furbizia che nello sport è un valore, allo stesso tempo invitare alla simulazione alla furbizia potrebbe essere molto pericoloso. È vero anche, come si diceva prima, che l'occhio di chi sta dentro al campo talvolta vede aspetti un po' diversi da chi è fuori, e quando a me è capitato di giocare e uno faceva qualcosa che fosse al limite, mi veniva da dire è stato più furbo di me, e quindi l'idea era provare a superarlo anche in questo, però mi rendo conto che tolto un gesto del genere dal contesto sportivo può diventare pericoloso, certo, perché potrebbe essere preso come un invito a non rispettare le regole o a simulare e trasformare la simulazione come un valore. Bravissimo. Cosa che non è. Bravissimo. Riprendiamo la discussione tra pochi istanti, adesso un attimo di pausa, poi già ascoltatori Luigi da Pisa e molti altri, 800 24 00 24, peccato abbiamo solo un'ora, però fino alle 18 ci siamo. Torniamo, io e Andrea Zorzi, cercando di riannodare i fili interrotti. Stavamo parlando e dicendo mille cose su Maradona. No, Andrea, chissà come sarebbe stato se non avesse fatto quella vita, ma non lo so, magari non necessariamente migliore di quanto già no. Gigantesco è stato. Esatto, forse rimangono ambiti proprio separati, quello sportivo sì. E quello privato criticabilissimo per mille ragioni, quello sportivo secondo me non ha avuto né vantaggi né svantaggi dal tipo di vita di è così, Maradona è così, non può essere preso ad esempio. Ma naturalmente. In campo però è veramente meraviglioso, nel senso che quello che ha fatto lui, le modalità con cui l'ha fatto, l'hanno reso, tanto anche fisicamente, il Barilotto. Però e Luigi Necro è quello giusto per raccontarlo, con la sua poesia. Perfetto, una copia perfetta. Tu hai visto il film La mano di Dio, che ho trovato un film poco azzeccato per la verità, con un personaggio così importante, così con una bella storia. A me non è piaciuto molto questo. Sì, hai ragione, sono d'accordo con te. A parte che anche qui un tema grande, di film sportivi ce ne sono pochi di belli, quelli che provano a far vedere il gesto atletico. Nel senso che finché si tratta di raccontare la storia, la parte romanzata che sta dietro è perfetta e bellissima. Quando nello schermo compare il gesto sportivo vero e proprio, per chi è uno sportivo cade tutto, perché quello del rugby si chiama... adesso non mi viene in mente. Invictus. Esatto, Invictus. La storia è meravigliosa. Però quando vedi questi che fanno i passaggi non sono rugbisti. Sì, no, giusto, corretto. E quindi, ti ricordi c'era Tommasi? Rino Tommasi diceva che Rocky sarebbe un film bellissimo... Se non ci fosse la boxe. Se non ci fosse la boxe. Ma ha ragione, ma chi segue lo sport lo sa benissimo questo. Altrimenti diventa un filmetto. Tra poco parliamo anche dell'ultimo Maradona, perché c'è un mio amico, un nostro amico, che conosci bene anche tu, che ha scritto un libro imperdibile, secondo me. Ma ne parliamo tra un attimo, perché prima ho ascoltatori che sono lì da un po'. Luigi e Franco. Luigi da Pisa, buonasera. Buonasera a voi. Io vi voglio parlare di un piccolo miracolo legato all'era di Maradona. Io nell'83 feci un incidente in moto e persi la vista, che l'ho riacquistato nell'84 con la venuta di Maradona a Napoli. Ho vissuto 7 anni meravigliosi dietro Maradona, con le sue sconfitte, le sue vittorie, e posso garantirvi che l'ho anche incontrato, in una persona umanissima. Poi quando Diego è andato via da Napoli, io ho fatto altre cose, mi sono sposato e naturalmente ho un figlio che si chiama Diego. Sì, è una cosa manco a dirlo. Grazie che possa esserci. Però bisogna dire che umanamente Diego va molto rivalutato. Lo hanno fatto sempre compagni e avversari. Perché una cosa che a me è sempre sorpreso di Maradona è che voci critiche nei suoi confronti, né tra i suoi compagni di squadra, ma quello non si allena, ma quello fa questo e quell'altro, né da parte degli avversari, insomma, Maradona trasversalmente è stato almeno rispettato da tutti, questo sicuro, no Andrea? Infatti il dubbio non è sulla capacità, sulla forza umana, sulla passione di Maradona, nessun dubbio su questo, è che poi dopo alla fine della vita, visto che in mezzo agli altre persone va anche gestita in modo regolare, sì. E questo è un po' meno facile. Franco, provincia di Treviso. Buonasera, buonasera cara Genta, e saluto anche il grande Zorzi. Niente, io cambio argomento, volevo passare un attimo a rilevare il comportamento della Juventus, della dirigenza della Juventus e del tecnico in questi giorni, che mi ha lasciato esterrefatto. Lei avrà sentito sicuramente la difesa patetica sulla simulazione di Krasic, tra l'altro da parte di un tecnico anche come Del Neri, che dovrebbe essere anche un educatore, secondo me è una figura veramente penosa. Marotta, che è uomo di calcio, un po' meno, Scusi? Marotta, che è uomo di calcio, ha tenuto un atteggiamento un po' diverso. Ecco, diciamo se non altro che si è tenuto un attimino fuori dalla faccenda. Esatto, questo l'ho notato. Io credo che si può sbagliare, non bisogna crocifiggere Krasic. Bravo. Tutti possono sbagliare, però è giusto ammetterlo e poi è finita lì, domani è un altro giorno. Chiudo dicendo, altra figura per me imbarazzante, il ringraziamento a Moggi di Agnelli. E quando, insomma, sappiamo al di là poi di varie conclusioni più o meno sicure che la cosa c'è stata, ecco, io credo che non sia bello che anche un dirigente giovane come lui si proponga in questo modo. Però devo dire, in quello ha detto una cosa molto scomoda, molto impopolare per i più, però anche molto onesta, devo dire. In quello, quello poi ti... posso condividere oppure no, sì. Anche sì. No, però da quel punto di vista, quanto è stato criticabile secondo me Andrea Agnelli nella condotta di questa vicenda Krasić, tanto in quelle parole, insomma, ne ho ammirato l'onestà, perché non era una cosa facile da dire. Sai cosa penso? Che nel calcio la stragrande maggioranza delle dichiarazioni non sono fatte per commentare un fatto specifico, ma sono fatte per costruire l'ambiente che si ritiene essere utile alla propria, sì, propria squadra. E quindi Krasić è l'occasione per parlare dello scudetto, è per far alzare l'attenzione nei confronti degli arbitri, è tutto però mirato non tanto al commento vero e proprio, ha simulato, il commento era ha simulato, ci ha provato, l'ha scoperto, e il problema è che non è finita lì, perché siccome poi gli altri presidenti, direttori sportivi fanno a loro volta degli altri commenti, è come se tutto questo, dichiarazioni, sì, facessero parte di uno strano intreccio in cui occorre occupare gli spazi, i giornali, preparare il terreno, ma è tutto ovviamente qualcosa che ha poco a che fare con... È strategia anche quella. No? Esatto, quindi tantissima strategia e poco interesse a commentare per quello che è il fatto che ha dato inizio alle dichiarazioni. È stato semplicissimo, questo non è stato toccato, è andato per terra, ha preso rigore, gli è andata dritta sul campo, gli è andata storta col giudice sportivo, perché i simulatori rischiano, lo sanno perfettamente anche loro, e la storia è finita lì con una squalifica che, insomma, l'abbiamo detto subito, era ampiamente pronosticabile. Io a volte me lo sono chiesto, non ho mai visto allenamenti di calcio in vita mia, li provano o vengono spontanee le simulazioni? Ma secondo me le provano. Dici che le provano? Il problema è che secondo me lo provano anche quando sono molto più piccoli di così, di quelli che vediamo in campo. Proprio come cadere, come... Ho come questo sospetto. Traffico, poi torniamo a parlare di Dieghito. Strade in diretta. Il traffico è al momento bloccato sulla 3 Salerno-Reggio Calabria a causa di un incidente avvenuto nel tratto doppio senso di marcia tra Buonabitacolo e Lago Negro Nord in entrambe le direzioni. 4 i veicoli coinvolti nell'incidente. Invariata la situazione sull'Autosole, dove per traffico intenso si rallenta verso Firenze tra Sasso Marconi e Calenzano e poi proseguendo verso Roma tra il bivio per la 11 Firenze Mare e Firenze Certosa. Code a tratti anche in uscita dalla capitale per il traffico intenso lungo il tratto urbano della 24 sino al raccordo anulare e poi ancora tra Sette Camini e Ponte di Nona. Infine sulla 9 Lainate Como Chiasso si incontra coda per operazioni doganali tra gli svincoli di Monte Olimpino e la dogana di Brogeda in direzione della Svizzera. Ed è tutto, prudenza e buon viaggio. Promo 24. Nasce un progetto per dare al paese un futuro digitale, un progetto firmato Telecom Italia. Nasce la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia, dedicato alle imprese pubbliche e private. Le aziende non dovranno più dotarsi di infrastrutture, piattaforme e applicazioni IT interne, perché è tutto nella nuvola. Così tutto è più efficiente, semplice e flessibile, perché si usa e si paga solo quello che serve e non tutto il server. Con la nuvola di Telecom Italia, il paese diventa innovativo, efficiente, competitivo e ancora più ricco di opportunità per ognuno di noi. Oggi tutto questo è nell'aria con la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia. A tempo di sport. Hoy estamos en el mundial adentro, sin ayuda de nadie. O a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Beh, questo avete riconosciuto, no? Diego Maradona dopo aver conquistato i mondiali. Emiliano Guanella, nostro... Ciao, Carlo. Ciao, nostro Buenos Aires Story. Hai messo una frase più polemica. Vabbè, ti pare che ne scelgo una banale. Per presentare questo tuo 50 volte Diego, perché sulla carriera di Diego giocatore, beh, sappiamo tutto, lo possiamo ancora vedere e tutto quanto. Sugli ultimi 10 anni di Maradona, che sono una parte molto controversa, anche molto nascosta, se permetti, della sua vita, beh, sapevamo meno. Lo scopriremo in questo 50 volte Diego che hai scritto da Buenos Aires. Esatto, insomma, sono 10 anni di cronache ho avuto la fortuna appunto di stare dal 2000, di vivere vivo dal 2000 in Argentina, da cui collaboro con diverse testate, tra l'altro anche Radio 24, e ho seguito tantissime volte, dico, Armando Maradona in un percorso che è assolutamente non lineare. Sono stato 3 volte fuori dalle cliniche, dagli ospedali dove lui era ricoverato, e quindi vivendo col suo popolo le angosce e la veglia. Sono stato nel programma televisivo che ha sancito nel 2005 il suo ritorno alla vita, la frase famosa di Maradona: a me la vita meglio revancia, la vita mi ha dato una rivincita, e quindi vedevamo Maradona 30 kg dimagrito di 30-40 kg dopo quella famosa operazione bypass gastrico in Colombia, ricevendo l'omaggio un po' di tutto il mondo del calcio. Sono stato alla Bombonera in quella bellissima giornata del 2001 quando Maradona decide, il mondo del calcio decide di dare una partita omaggio a Maradona, perché la parola addio era qualcosa che non poteva esserci nel DNA di Maradona. E poi soprattutto Maradona con Chavez, con Fidel Castro, Maradona politico, e poi il Maradona degli ultimi 2 anni, di questa avventura alla fine terminata male, ma comunque molto ricca di aneddoti, di emozioni, che è stata la sua permanenza sulla panchina della nazionale argentina, della selezione. Andrea, quella dietro Maradona è una bella vita d'inferno, eh? Però anche molto interessante. Sì. Erano chiare le sensazioni nelle parole di avere una vita non lineare, definita, sì, del eufemismo, evidentemente. Senti, Emiliano, il rapporto di Maradona con la sua gente? Beh, c'è in questo libro? Certo, Buenos Aires è l'altra grande, cioè è la patria di Maradona ovviamente, ed è l'altra grande città, il cuore di Maradona è diviso fra Napoli e Buenos Aires. Lui non ha mai dimenticato ovviamente Napoli, ma non dimentica di essere nato in quella Villa Fiorito, quel sobborgo che io ho visitato tra l'altro prima dei mondiali, ed era assolutamente in fermento per la possibilità di vedere il loro abitante più famoso appunto in Sudafrica. Non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai dimenticato la sua gente. Il rapporto degli argentini con Maradona è un rapporto assolutamente simbiotico, al punto che molti sociologi anche hanno azzardato delle spiegazioni su parallelismi fra la vita, gli alti bassi di Maradona e gli alti bassi di un paese, l'Argentina, che noi tutti sappiamo ha vissuto momenti di grande splendore, grandi ricadute, grandi cadute. Quindi un rapporto anche lì di amore, sicuramente, non dire di amore e odio per nulla, un rapporto di amore che si è visto per esempio quando la selezione nazionale argentina è tornata a Buenos Aires subito dopo la sconfitta, la batosta incredibile 4-0 nei quarti di finale in Sudafrica, e c'erano, e io ero lì a registrarlo, c'erano più di 20.000 persone a salutare la nazionale come se avesse vinto, una cosa un po' irreale. D'altra parte, sì, il giorno prima la seleção brasiliana di Dunga era tornata all'aeroporto di Rio de Janeiro, e quasi alcuni giocatori come Felipe Melo dovevano uscire dalla porta di servizio per non essere insultati dai tifosi. Hanno dovuto chiamare l'esercito, Maradona. Si sono chiusi in casa per dei mesi, Felipe Melo come Julio Cesar eccetera. Andrea, una domanda per Emiliano: se ha avuto l'occasione di fare una cosiddetta lunga chiacchierata con Maradona, e se sì, è un dialogo normale oppure Maradona parla per i fatti suoi e all'interlocutore occorre ascoltare? No, io ho avuto molte occasioni in cui sono stato con Maradona, piccoli dialoghi, lunghi dialoghi, interviste, battute. Ecco, io nel libro 50 volte Diego, che si trova sul sito ilmiolibro.it, nel libro racconto anche un aspetto di Maradona, che è la straordinaria capacità nel trovare sempre la battuta giusta, nel trovare sempre la frase che ti risolve una situazione, che ti sintetizza, e quindi un dialogo con Maradona anche corto diventa molto interessante, così come la sua vita. 50 anni oggi, 10 anni fa per esempio Maradona a Cuba disse: compio 40 anni ma come se fossero 70, oggi ne compio 100, forse come se ne fossero, ne compio 50 ma come se ne fossero 100. Ecco, Maradona è nel giorno dopo giorno, e nei dialoghi, nelle conversazioni, negli incontri anche con la stampa, lo stesso Maradona che abbiamo visto in campo, geniale, capace di dribblare, capace di passare oltre, capace di ridarti il pallone in una maniera anche imbarazzante, nel senso che non sai come riceverlo. E le frasi di Maradona sono tantissime. Io, se volete, ve ne racconto solo una brevissima. Vigilia della partita col Perù. Perù, la partita col Perù, penultima partita del girone eliminatorio, l'Argentina, ricordiamo, ha sofferto moltissimo per qualificarsi in Sudafrica. Un giornalista spagnolo chiede a Maradona se i suoi giocatori, i suoi campioni, Messi e compagni, sentono pressione in vista di questa partita, e Maradona se ne esce con una frase così: i miei giocatori non hanno pressione. In Argentina la pressione è quella di un padre di famiglia che esce di casa alla mattina e non sa se la sera torna a casa con pochi spiccioli per dare da mangiare ai suoi figli. I giocatori di calcio non possono parlare di pressione, devono parlare di responsabilità. Ecco, queste frasi escono a Maradona naturalmente, sono pensate, studiate, ed è da 30 anni che Diego ci ha abituato a queste frasi, molto prima del zero titolo di Mourinho e molto prima della mediatizzazione del calcio di oggi. Le concediamo solo a lui anche, e se un altro giocatore ci dice una cosa del genere lo vivisezioniamo. È vero, hai ragione, se viene fuori un altro a dire una cosa del genere viene immediatamente fatto a pezzi. Grazie Emiliano, ti aspettiamo qui quando potrai, e se no chiacchiereremo da lì. 50 volte Diego, vi ricordo, lo trovate su ilmiolibro.it di Emiliano Guanella. Io ho un minuto da dare a Giovanni Capuano, e non di più purtroppo, per un preview di quanto accadrà tra poco a San Siro. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, allora quello che accade è grosso modo quello che è stato previsto alla vigilia, anche perché sono più gli assenti dei presenti, almeno gli assenti pesanti, quindi nel Milan è confermato Robinho dietro a Ibra e Pato, a metà campo ci sono Boateng e Gattuso, e Seedorf si siede in panchina, nella Juventus è Martinez che dovrebbe aver vinto il ballottaggio come vice Krasic, a metà campo davanti Del Piero e Quagliarella, in mezzo ci sono a centrocampo Aquilani e Felipe Melo, De Ceglio gioca a sinistra in difesa. Questo per Milan-Juve. Grazie a Giovanni Capuano. Andrea, grazie ancora, un piacere come sempre stare qui. Io ti aspetto, basta, mi fai aspettare ancora tutti sti mesi. Ma io avrei voluto essere in Giappone con la nazionale femminile di pallavolo, che domani gioca con Kenya. Oggi è bella partita intanto, e no, mi sa che ci vediamo sabato prossimo. Dai, bellissimo. Ciao a tutti, grazie ad Andrea Zorzi e grazie a Giorgio Duca per il lavoro in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi ci sentiamo e domani pomeriggio ce ne sarà da dire, dalle 5 alle 7, poi basket 8 e mezza 9, menù completo. A domani. Tempo di sport.